soltanto la guida, passando attraverso questi diversi gruppi di codici, cercando di rimanere all'interno di quello che è così, l'indirizzo emerso più volte in maniera autorevolissima in questo seminario, cioè l'indirizzo del concreto, della concretezza. Si è passati dalla spiritualità, dalla coscienza degli umanisti alla vita degli studenti a Padova, eccetera. Qui parleremo di qualcosa di ancora più concreto, cioè della biblioteca di un vescovo che con l'umanesimo ebbe particolari rapporti. E vorrei dire, c'è anche qualcos'altro di concreto in tutto questo. Se è vero, come il professor Strunad mi ammoniva per lettera, che Hinderbach non fu veramente un umanista e come tale non può e non deve essere sopravvalutato, che in fin dei conti fu ricettivo nei confronti del fenomeno culturale umanistico, è anche vero un'altra cosa, cioè che nelle persone grandi e nei centri grandi di questo fenomeno culturale si può trovare traccia delle intenzioni, dei programmi, della coscienza di sé, eccetera. Ma nei centri minori e nelle persone di secondo piano si può verificare effettivamente la portata, a mio avviso, di un fenomeno culturale, l'incidenza effettiva di un fenomeno culturale. Il discorso che io ho intenzione di fare, chiacchierata, più che altro ha parecchi limiti, il primo dei quali è costituito dalla quantità di codici visibili e dalla quantità della pazienza disponibile nei singoli ascoltatori. C'è un fatto, molti dei codici importanti dello Hinderbach non sono custoditi a Trento, alcuni a Tribuziana, altri ancora alla Nazionale di Vienna, altri non sono visibili per il momento perché destinati a restauro e sono custoditi presso il Castello del Buon Consiglio, altri, tra cui uno piuttosto importante che forse riuscirò, a chi interessa, a far vedere in microfilm, è custodito al Castello del Buon Consiglio, pur essendo di proprietà della biblioteca comunale, è un codice autografo di Felice Feliciano, comunque casomai lo vedremo più tardi. D'altra parte poi c'è anche questo, per illustrare decentemente la biblioteca dello Hinderbach ci vorrebbe molto di più di quanto non sia qui esposto su questi tavoli, parliamo in soldoni, in termini quantitativi. Questa ricerca, che non ho mai avuto il tempo di rivedere decentemente o di aggiornare, sono riuscito ad attribuire all'Hinderbach circa 120 pezzi di questa biblioteca. 120 pezzi, però, teniamo presente che molti di questi pezzi sono miscellanee di 10 numeri circa ciascuna, quindi il volume delle letture dello Hinderbach è decisamente piuttosto ampio. Per quanto riguarda così alcune precisazioni metodologiche, ecco, io farò riferimento nel citare i codici, se mi capiterà di citarli invece che di indicarli direttamente, farò riferimento al catalogo Gentilotti, arricchito e edito dal Bonelli nel quarto volume dei Monumenti Ecclesie Tridentine, mentre le segnature saranno le segnature attualmente vigenti, sia per la comunale, che quelle provenienti da Vienna, le segnature delle tabule o del catalogo del Böhm per i codici provenienti dall'archivio di Stato. La precisazione più importante, però il limite più grosso, a mio avviso, è questo, che bisogna prima di tutto intendersi sul concetto di biblioteca dello Hinderbach. Cioè, non è molto semplice dire la biblioteca del vescovo Hinderbach era questa e quest'altra, stava in questo certo luogo, conteneva questi certi volumi. Bisogna distinguere fra volumi di proprietà personale di Giovanni Hinderbach e volumi rimasti nel fondo librario dei vescovi trentini. E poi bisogna distinguere anche fra, specialmente per i libri di carattere liturgico, devozionale, eccetera, fra i diversi fondi gravitanti più o meno intorno alla cattedrale, quindi e i libri dei canonici e i libri del capitolo come tale, ci sono delle emorragie in tutti i sensi. Un caso è quel Trasmundus de Arte Dictandi, capitolare 68, postillato dallo Hinderbach, di proprietà del canonico Giovanni Vogler, che fra il resto non so come ha lo stesso stemma dello Hinderbach, non sono riuscito ad appurare il perché, nell'edizione curata dall'Albertini delle lastre tombali, è riportata anche la lastra tombale di questo Johannes Vogler, che ha appunto questo stesso stemma dello Hindenburg, che poi vedremo apparire anche in altri manoscritti. Comunque è difficile stabilire che cosa significhi biblioteca dello Hindenburg. Pertanto, in via così del tutto provvisoria e preliminare, a mio avviso, ecco, si potrebbe intendere per biblioteca dello Hindenburg un gruppo di libri, non so dire quanti esattamente, perché poi per le miscellanee si presenta il problema di quale parte della miscellanea appartenesse, quale altra non appartenesse, quali interventi di legatura sono stati fatti, eccetera. Un gruppo di libri che comunque sono giunti in mano allo Hindenburg, che sono stati da lui letti e postillati. Cioè un'attribuzione fondata su una specie di via regia, insomma, la presenza di postille che certificano di questa lettura. Adesso il discorso si potrebbe snodare su due direttive. Si potrebbe dare un'occhiata alla biblioteca hindenburgiana dal punto di vista del contenuto, o si potrebbe invece dare un'occhiata alla stessa biblioteca, interessandosi più che altro al modo in cui lo Hindenburg ha preso visione di questi manoscritti, al modo in cui ne è entrato in possesso, ne è giunto a conoscenza. Penso che il secondo fatto sia più importante, non esclude il primo, perché vedremo che a certi modi di acquisto corrisponde un certo contenuto del codice stesso. Comunque è più importante, a mio avviso, vedere come questi libri entrano a far parte di questo fondo hindenburgiano, come si costituisce pian pianino questa biblioteca hindenburgiana, reale, autentica o astratta che sia, questa definizione di biblioteca non importa. Vedremo come si costituisce e poi, se a qualcuno interessa, si potrà anche fare un breve discorsetto sulla dispersione di questa stessa biblioteca, vedendo alcune cose abbastanza tipiche che proprio indicano i modi della dispersione della biblioteca stessa. Per quanto riguarda i gruppi di libri che fanno parte di questa biblioteca, cercato di dividerli un po' come segue, in maniera estremamente schematica. Prima un gruppo di manoscritti già presenti nella, chiamiamola, biblioteca dei Vescovi di Trento, diciamo nel fondo librario giacente presso i Vescovi di Trento, pare che fino al 1506 e oltre, fra il resto, i canonici del Duomo possedessero il diritto di spoglio sulla biblioteca del Vescovo defunto. Quindi anche lì, insomma, determinare dove si trovassero i libri di chi fossero è abbastanza difficile, vedremo alcuni casi di recuperi abbastanza complicati. Comunque, un primo fondo costituito da libri già presenti, sicuramente già presenti. Un altro fondo derivante dall'attività dello Hindenburg come studente a Padova e alcune annotazioni che chiariscono come lo Hindenburg avesse anche un fondo librario di provenienza della sua famiglia. Poi passeremo a codici che sono stati recuperati dallo Hindenburg, codici già della Biblioteca Vescovile da lui recuperati, spesso con storie anche piuttosto strane, altri codici acquistati personalmente, altri che furono donati o lasciati in eredità, c'è cioè un piccolo accenno anche agli incunaboli, e poi qualcosina che riguarda la dispersione, qualche codice dalla storia un po' particolare come quello che dovrebbe essere l'autografo della continuatio della storia di Enea Silvio Piccolomini, che non c'è più, è rimasto nei cassetti dell'editore Collar. Pazienza. Comunque possiamo cominciare, io credo, il giro. Non vorrei rendere le cose troppo complicate. Dunque, per quanto riguarda il primo gruppo, io ho scelto soltanto due esemplari, che tra l'altro si riducono a uno. Presente in sé, l'altro è presente soltanto in fotografia. Presente una fotografia, fra il resto negativa, ma è l'unica cosa che la biblioteca possiede per testimoniare di questo breviario che già nel catalogo Gentilotti numero 21 passò alla Bayerische Staatsbibliothek di Monaco e fu identificato già prima che il professor Gerola trattasse la restituzione dei manoscritti viennesi. Uno studioso ne ha tratto queste fotografie piuttosto oscure, sono importanti soprattutto per la storia della vita dello Hindenburg, perché si tratta di postille a un calendario. Questa è una mania di questo benedetto uomo che non ha risparmiato con quella penna che sembra una zappa il più delle volte, non ha risparmiato nemmeno un tesoro autentico come è il sacramentario gregoriano. Il calendario del sacramentario gregoriano di Trento è scarabocchiato in lungo e in largo dallo Hinderbach, così mi pare anche Lugarriciano, si è salvato solo di quei codici preziosi l'emazzeliario purpureo, perché non si vede, se uno facesse una postilla lì sopra non riesce più a leggere. L'altro è il codice della comunale 1711, 176 del Gentilotti, già appartenuto al vescovo di Trento Enrico III di Metz. È un codice abbastanza noto, è stato edito a suo tempo, fra il resto, contiene Capitula Cisterciensis Ordinis. Nell'originale esisteva una nota dello Hinderbach su questo foglio che identificava il proprietario del manoscritto. Adesso di questa lunga nota è rimasto soltanto ciò che è scritto su questo foglio. Opinantur et est sepultus in abside dextera in Ecclesia Cathedrali Tridentina. E nient'altro, il resto della nota è comunque riportato nel catalogo del Gentilotti Bonelli, del quarto volume dei Monumenti a Ecclesie Tridentine. Andando avanti, ecco, direi di passare al momento padovano dello Hinderbach. Qui si vede un po', questi sono volumi scritti interamente da lui, testo, postile, sono tutti di mano, autografo dello Hinderbach. La Biblioteca Comunale possiede quattro manoscritti di questo tipo, quattro raccolte di appunti padovani dello Hinderbach, rispettivamente 1560, 1561, 1589, 1592. Noi ne vediamo qui due, così tanto per avere uno specimen della grafia, e questo invece è mostrato perché in uno dei capitoli che trattano della legittimazione dei figli spurii, lo Hinderbach annota a penna, disegna a penna lo stemma dello zio Dietmaro, che poi diventerà il suo stemma nel 1459. Scusate, mi giro, perdono, e passo qui. Ecco, questo è il diploma di nobiltà concesso nel 1459 col sigillo Magnum di Federico III, il posto dove doveva essere disegnata l'insegna, che non fu mai disegnata. Comunque l'insegna corrispondente a questa descrizione è riportata in due volumi che contengono la lettura prologorum tibie magistri canonici de Assia Turitica. Ecco, a ecco lo stemma dell'Ottica, quale potrebbe essere in realtà una descrizione data da Vittorio. Bianco su nero, le cinque piante con un corno nascente da sinistra verso destra. In realtà, della vita universitaria dello Hinderbach, una cosa abbastanza così, chiaramente classificato il diploma di laurea, gradirei far osservare la differenza tra i due documenti, proprio di visiva tra i due documenti. Questo è un diploma di laurea dell'università di movimento umanistico italiano, eccetera, eccetera. 17 anni dopo invece viene quell'altro documento che è tutto tipicamente imperiale, tipicamente goto, con una scrittura di un altro tipo, di un altro ambiente, perfino nel sigillo insomma le cose sono decisamente diverse, anche il signor tabellioni di questo signor Vladimir Saracenus per farvi notare porta la firma in lettere capitali, quindi insomma qualcosa di estremamente raffinato, finirebbe che l'originale sono attivitato e lignato, eccetera, eccetera, eccetera, non si può vedere tutto. E ancora degli anni di Padova, questo foglio, che normalmente viene preso come un foglio strappato da questo codice, nel quale è inserito, in realtà non è un foglio strappato dal codice, è un frammento di una dissertazione tenuta dallo Kinderwagen a Padova. Non so in quale occasione esattamente, non riesco a datarla, so solo, prendo la trascritta, chi può interessare il testo, eventualmente, questo sarebbe il testo della cosa stessa, della dissertazione stessa, chi può interessare. Lo Winterbach praticamente in questo frammento rifà la storia della sua carriera universitaria. Rifà la storia della sua carriera universitaria, parla degli anni di studio a Vienna e di altri momenti del suo studio di Padova, eccetera. Se può interessare, tanto ci sono la borsa per i codici, poi se può interessare al link, bisogna passare al collega Carlo Guido. Ecco, ai momenti dello studio di Padova è legato anche quest'altro codice, soltanto un esempio, in realtà se ne possono rintracciare una decina di codici di questo tipo. Un codice di un altro studente padovano che arrivò quasi sicuramente alla biblioteca dello Winterbach, e appunto contiene orazioni di Cicerone, cose piuttosto diffuse, ci sono molti codici sidoniani nella biblioteca dello Winterbach, di Winterbach, possibile anche di Malavoglia, cose di questo tipo, non mi interessa molto, Cicerone, mi interessano gli storici, mi interessa soprattutto Eutropio e cose di questo genere, proprio storia ben riassunta, ben chiara, ben distinta, in modo che ci si possa fare un'erudizione, insomma. Quando un trattato è scritto in maniera piuttosto disordinata, suo avviso, allora Winterbach, prendendo la sua famosa penna, decide per conto suo, ad esempio per un opuscolo di Flavio Biondo, trattato male in questa maniera, Winterbach dice no, mi dispiace, caro Flavio Biondo, il tuo modo di dividere il libro non mi va assolutamente. Per cui i capitoli di numero, come mi pare, cancella i titoli e si rifà la numerazione del libro. Poi devo spiegare un po', ecco, la provenienza dei libri dello Winterbach. Direi che può essere interessante dare un'occhiata a quest'altro manoscritto, Trentino 1789, eccolo qua. Non è niente di importante in sé, non contiene la leggenda aurea di Jacopo della Rasca, niente di particolare. Solo c'è una postilla in fondo, che è in fondo una delle pagine, che è molto interessante. Dice: «Os libro somnes in uno volumine, ad libros illustissimo e in antiquissima littera, interalios libros et tartatus, reperimus in domo nostra, in quadam testudine et taxa verbibus corrosa. Qui ut credimus puero volim felici memorie magistri Henrici de Asia, dottori, sacre pagine, silenzissimi, eccetera». Ha trovato quindi altri libri, ma adesso se tanto trovati pazienza, allora dà dei progetti abbastanza ampi, questo signore. E infatti, nota di aver trovato il De Celesti Hierarchia dello stesso XI e di aver intenzione di farlo stampare, probabilmente a Trento, e poi si parla di Montecani e Sant'Anna. Del manoscritto dello Seudo di Nice, o di un'opera a stampa, di questo tipo, nessuna notizia purtroppo. passiamo all'altro lato. Negli acquisti, delle tese di Matiana, possiamo mostrare l'incunabolo contenente il verbo Tolemy, fascicolo Stempolo, annesso al codice di invece 116. Ho letto, porta anche la nota d'acquisto di Lunderba. Ti porta a ripetere, meriterebbe ogni libro non studio a parte, specialmente i libri di carattere storico, perché lo Lunderba è estremamente copioso di note, di costruite, di notizie personali sulla diocesi, eccetera. Vedremo tardi, ad esempio, il Funambolo 422, che è uno degli Funambuli che raccoglie il secolo editoriale di Vincenzo di Govetti. Beh, lo Lindenbach non si accontenta nemmeno di Vincenzo di Govetti, mi dispiace, bisognerebbe continuare con questo libro perché è troppo ridotto, non va abbastanza avanti nel tempo e si trova in effetti a continuare con i vizi di queste continuazioni. Ecco, un testo interessante, non tanto solo per il contenuto, è il libro Regole Pastorali di Gregorio. Non tanto solo per il contenuto, quanto per la storia del carattere dell'uomo fin da parte del testo, 1666, il giornale recentissimamente restaurato, che è stato acquistato dallo Lindenbach 1465 a Roma insieme a Emus Umbricum Pastorali di Asia Gregori di Roma, proprio di pubblicati, seguo Johannes Lindenbach, Prepositus et Electus, una cum fanno custode scolastico e d'Ambrosio stesso canonicis ecclesiae benedettine. Tra il resto, questi signori gli avevano portato la notizia dell'elezione a vescovo, la riprendo, la notizia della morte del predecessore, ma Lindenbach era proprio ingenuo, era già a Roma prima della morte del predecessore, ma si stava facendo un po' di pubblico. Quest'altro, Viennese 225, ecco, rappresenta un caso abbastanza interessante. Si tratta del commento di Macrobio al Somnium Scipionis, un testo piuttosto antico, XIII probabilmente, al quale Giovanni Mattia Tiberino Chiari, il medico che fece l'autopsia sul cadavere di San Simonino, perfetto, è sempre nella stessa polenta che rivediamo, fece preporre a cura sua il testo del Somnium Scipionis, commento di Macrobio, e preporre il testo. Poi successe una cosa un po' strana, vabbè, Tiberino segna Emibut Macrobium in vigilia Assunzione Domini, eccetera, eccetera. Lo Lindenbach poi recuperò questo testo dal Tiberino, perché evidentemente gli interessava, vedremo come gli interessava. Solo che la nota d'acquisto dello Lindenbach è stata completamente erasa. Sono riuscito a leggerla due giorni fa su un'indicazione, non mi ricordo più di chi diceva, c'è questa nota completamente erasa. E può essere interessante anche vedere un passaggio di un libro di questo tipo. Il libro è stato comprato dal Tiberino per un fiorino. Poi, quando lo Lindenbach lo ricompera, annota: Nos abillo un credenimus datis auri nunnis duopus credensibus e od immense anno tempore. Quindi, una valutazione galoppante nello stesso mese da un fiorino a due fiorini di questo volume della storia. Ecco, il testo è postillato abbastanza frequentemente da Leonide, ma direi che la cosa più interessante è questa. L'immagine al Somnium Scipionis di Cicerone annota: Quam consona sunt ec fidei nostre cattolice et libris sacris ad theologicis Moisi a Ioannis apostoli ed evangeliste primor viis. Cioè, ciò che gli importa degli scritti dell'antichità è la consonanza con la dottrina cattolica che viene espressa. Il 4006 del mese, scusate, ma non saprei in che altro modo spiegare le cose. L'ENESE 4006 è piuttosto interessante perché testimonia dell'atmosfera piuttosto difficile in cui personaggi come Lorindeva sono andati a cercarsi i propri libri. Parla della discussione dello studio di Praga, quando gli studenti da Praga furono mandati a Erfurt, eccetera, eccetera, e annota appunto qua, come fosse difficile in zone eretiche procurarsi testi come questo, come Laus Marie, che poi cercò di purgare e di rendere più consonanti che la fede cattolica. Poi abbiamo il 1802, insomma, è un altro codice ciceroniano, già dicevo prima che le postille sono piuttosto scarse, eppure è stato affittato da Lodinderva Emi a Domino Ulrico Scharner, organista dell'Ingolstadt Libris Duavus. Poi più in là la data o altro non è possibile vedere. Poi vediamo di parlare adesso un po' di recuperi. I recuperi sono molti, a cominciare da quel viennese che abbiamo, da quel codice monacense che abbiamo visto fotografato di là, già appartenente a Liechtenstein, poi disperso, poi ricomprato dalla Finderbach e quindi disperso ancora. Una storia piuttosto complicata. Altri recuperi che varrebbe la pena di menzionare, ad esempio il viennese 787, che è al castello del Buon Consiglio, pertanto non è visibile. Che contiene il Chronicon di Riccardo di Cluny, Riccardo Tuttaviensis Chronicon. Interessante più che altro per la storia, credo che il professor Stornato, non ho potuto ascoltare, abbia citato questo codice per la storia proprio del manoscritto. Lovindebach nota: «Iste liber fuit olim Ladislai, fidi Alberti, ducis Austrie et Romanorum, cum varie a Bohemie regis, et Elisabeth filie Sigismundi, filii Carli IV, suprascrittorum regnorum», eccetera, eccetera. «Quondam predecessori nostro, domino episcopo Georgio hoc de Slesia Donatus, in distribuzione rerum suarum mobilium ac plenodiorum, una cum pitario quodam ad insta calicis, tempo del 1457, eccetera». Poi si annota anche Lindeva che ebbe altri libri, Eutropio, Stefonio e altri testi che non sono reperibili, che provenivano dalla cattura di Magister Gasparis Brendel o Pendel, pedagogo Domini Regis Ladislai, eccetera. Sarebbe interessante poter vedere che qui cosa si trova, se non è possibile. Il 1566, questo dà un po' l'idea di come l'Interbat procedesse nei suoi acquisti. Il liber repertus est apuquendam in ebreum divenitut de Brixia Siverius territorio habitatum ignoratus sibi ut asserui in indis partibus quem perti ecclesiasticum et sacri dedicatum destazione de manibus et urdim recepimus pronomis et ecclesia accusibus nostri servandum, eccetera. La prima cosa, insomma, è sistemare i libri che si trovano persi in queste botteghe, in queste stazioni degli ebrei. Vedremo un altro caso in cui i libri degli ebrei non vengono proprio così presi dalla bottega, vengono presi decisamente dalla comunità ebraica, e troveremo forse un altro codice. Viennese 786. Viennese 786 è un esempio di storia complessa di un libro. Bisognerebbe avere la santa pazienza di per poi illuminare tutta la pagina per vedere le successive note di acquisto e di acquisto di questo libro. Però questo libro più erano assolute, eccetera, eccetera. Tutte le tridentine, poi tutto il resto risultò impignorato presso alcuni diversi canonici che se lo passavano come controvalore di affitti che non si riuscivano ad esigere, e poi alla fine lo Winterbach riuscì a recuperarlo, fece riscrivere l'iscrizione di proprietà come era prima, di rasa, poi fu riscritta, e annota qui che questo volume fu inizialmente non solo del convento di San Lorenzo, ma fu di proprietà del vescovo Vacca, e quindi va rivendicato alla chiesa trentina. Ecco, questo è più che altro interessante per il metodo col quale lo Winterbach si procurava supplementi o parti mancanti dei codici che possedeva, che è un po' per il suo metodo, possiamo parlare di procedimento filologico, un po' per il suo metodo. È la storia Languagorum di Paolo Diacono, e la nota di vescovo: hoc supplementum cuius historiae Languagorum abuimus ex bibliotheca monasterium Tegernensi Frisingensis diocesis in Baioaria. Dal monastero di Tegernsee, dal monastero di Tegernsee proviene anche un'altra cosa, 33-33 genovese, che contiene Giulio Cesare e poi alcuni carmi in onore di San Quirino, scritti da Metello di Tegernsee. Comunque pare che fosse in contatto con questo centro valese. Più o meno sicuri. Ecco, questo qui di passaggio noto che la rilevatura originale di Pips, le biblioteche di Mattiano, più o meno quelle delle quali era più intenzionato, è quella in pelle rossa, sarebbe quella molto importante, dovrebbe essere quella originale della biblioteca di Mattiano. Invece, invece molti dei codici della scuola sono collegati con questa lettura tanto rinascimentale, espressione candelabri, e appunto questo fatto dà occasione a volte di confondere il contenuto, si riesce a dire che sia codice se fosse stato originariamente composto o meno. Prima dicevo proviene da Tegernsee, contiene la prima parte della Sodalia, Cesare, poi le altre opere di Sepanza, e alla fine terminati a Metelli di Tegernsee. L'importanza è abbastanza relativa, sempre cioè, però l'unica cosa leggesse questo. L'importante è anche il Trentino 1658, che contiene la prima decade di Livio e i primi due libri. L'importante è che testimonia anche della passione archeologica, della passione di un grafista del Winterbach. Questa postilla, gli stetti, discute della presunta tomba di Romolo, la piramide dove essere la tomba di Romolo, eccetera. Non c'è il tempo di fare tutto quanto sul Romolo. Contiene parecchie opere, una miscellanea bellissima, cioè il resto contiene storie, per esempio, quella del Santo Romano, contiene opere di Vecenzio, comprende il libro del Forte, l'opera di Espresso, letto quasi in topo dal Winterbach, compilato. Questo è un adesso posso ritenermi quasi convinto che lo Hindenburg effettivamente possedente di questo codice, che ripeto contiene la nostra fisica, perché in uno dei microfilm che sono stati fatto cortesemente avere dalla Biblioteca Nazionale di Vienna, contenente parte di un'opera che poi citeremo, appunto lo Hindenburg menziona un codice del codice della fisica ed è possibile trovare dei riferimenti precisi a questa tesi. Questo testo contiene la storia di Tatis Augustani di Sigismondo Meisterli, dedicata a Sigismondo Bossenbrock, e sembra piuttosto interessante perché non è possibile, bisognerebbe appunto fare qualche cosa discorso a parte. In una di queste postive lo Hindenburg nota di avere polemizzato a lungo con Sigismondo Meisterli su alcune questioni cronografiche. Comunque non è il caso di perdersi in questi particolari. Abbiamo poi il 29-10 che contiene una traduzione in tedesco di Heinrich von Müller, di Valerio Massimo, che è lui che sta lasciando portillata qua e là dal vescovo Hindenburg. Per esempio qua un esempio la fine del latino Magnus Error Indulgimus. Poi 1929 la testa di Jordanes, questo qua Jordanes, e qui ritorniamo a quello che diceva prima il signor Roger circa l'illustrazione della storia della diocesi. A un certo momento Hindenburg si dà a cercare questo vicinio di cui parla, l'introduzione. Questi vicinius sono posti quel spirito di Jordanes posti a un punto di Papa Antonomus, questo codice conteniente tre lettere di Antonio, che sono dei due successori, è un importante proprio dal punto di vista della geografia italiana. In una postilla lo Hindenburg ricorda il momento della rivoluzione viennese, momento in quale per il resto ha perso anche tutti i suoi libri, come quello che sono stati ricordati. Siamo nel 1224, molto mal ridotto, poverino, purtroppo. Una miscellanea di opere umanistiche, di opere originali, di traduzioni, eccetera. Qui quasi interessante dal punto di vista della formazione dello Hindenburg. Il trattato, Venus Exposicionum, viene da lui identificato e viene attribuito a un autore, Guarini, il credo Veronensis. La tecnologia è bassa, perché il testo non vale neanche la pena di tenere conto. Siamo adesso alla sezione, lascio qui il donatore, codice latino 1780, vocabolario del latino tedesco, il delitto del vocabolario, appunto, il delitto di Romagna, il volo del Tavolo, il delitto di Sassoli, il studio di Arturo e Calisandri, il delitto di Serrani, il delitto di Serrani, il delitto di biblioteca, il delitto di vocabolario piuttosto complesso, non ho trovato una definizione di questo vocabolario, di quello di vocabolario e scuola, oppure sembra che non siano qui voi a rovinare qualche completamente unito e noto. Trentino 1987, il libro di cui oggi Fatiti, Andrea e Lasori, sopra Anno di Montagu, per il già Vienne, ad esempio Portan, antichi curiali sul Consiglio Basiliense. gli occhi hanno l'occhio di livello Johannes. Interessante più che altro perché lo Lunderbar si dimostra anche interessato a vedere i medici che sono particolari che si vedono come ho mai personalmente interessato. Un altro codice di Scheropiano, proprietà dello Hildebrand, spiega come si osmosi tra i vari punti di gravi che il livello è contento, santi da venti, extra identico, ordine di predicatorio, santi tutti i nomi scomodati, in questo caso si interviene regalato proprio. Quest'anno no, perché è molto nobili. Questo ricorda invece la celebrazione dell'inizio dello Hildebrand, un livello unicus e l'oratore proprio di fissa con i smartri, nuovi significati. Quando celebrò le primizie di Hildebrand, qui abbiamo un primo esempio che proprio mi sorprende qua grande unico di libro regalato firmato da un amico di noi. Grazie. frate Pietro Tombe, il quale economico di due fasciotti, quello di Italia, che aveva consultato tutto il corpo di Cristo, ma lo aveva detto che il corpo era facciato, ma salio benissimo, però era frate, il corpo non voleva andare, ma cosa ha proprio fatto il e allora fu espulso e lo dire ma non è qualcosa. Sentire il ricordo per conoscenza di dove regalò la morte del suo livello caso di sollare. Non è necessario, ipotesi fatti eseguire dallo stesso presentare prima di tutto un unico continente della costituzione parte delle opere di Cristo, non c'è cosa praticamente ma è economica all'opera di Cristo da un'altra si presenta procurare i nostri disordinati. Grazie. gli altri codici fatti eseguire ci sarebbe continuare a parlare, tanto che sono testi preferiscono o anche di maggio regalati, potremmo dire che la guerra è stata sulla preparata, che un altro tempo è difficile una famiglia di Romeo, regalando la città, la famiglia di Romeo, altre cose un po' più importanti, che saremo sicuramente abbiamo sempre quello di parlare della dispersione, il caso più evidente di dispersione, come direi che è il caso di dispersione, è il caso di dispersione, è il caso di dispersione, è il caso di dispersione, è il caso di dispersione, la professora Garcia è qui per scrivere questo volume, dice certamente che il codice contiene questa continuazione ed è tutto autografo dello Isola. Certo, il codice non è un esempio, Paolo accetta, si senta, Paolo detiene altre cose, Paolo, Paolo, eccetera. E la prima parte non esiste da molto tempo, da quando praticamente il dottore Colla si è fatto il codice. Un lavoro fatto veramente bene, ma certo, perché non è uno strato fatto male, per esempio qui fascicolato che ricoperto con una carta e per di più le antiche segnature che erano più originali quando di guardia, quindi ritagliate e poi incollate in un nuovo foglio di guardia, una garanzia molto bella. E ricorda almeno, mi dice il professor Sera, ogni probabilità continua perché ha detto l'autografo della continuazione è rimasto, sì, è rimasto nelle mani del collo. Ricordare ancora con la sua relazione 3 poi una cosa, una distorsione di realtà, secondo me si deve ringraziare, la distorsione della base del secondo, preziosa cosa piena, la distorsione per la quale si deve ringraziare per una semplice cosa, basta confrontare l'attuale bibliografia sui codici primati a Vienna con la bibliografia sui codici andati a Vienna per rendersi conto di quanto lavoro sui codici trentini si è stato fatto a Vienna, a quanto poco invece si è stato fatto sui codici primati a Vienna. Basterebbe pensare soltanto questo, che i codici trentini a Vienna sono stati schedati per vero, sono stati catalogati per l'Entrica, sono stati catalogati per le tavole dell'Italia, c'è un gioco che è un lavoro che è stato fatto, sono stati usati per collazionati i parti del piano militare, eccetera. I codici trentini sono rimasti chiusi. Ecco, i documenti che riguardano la dissensione vorrei presentare come una cosa che è stato molto quando c'è un catalogo del 1465, è un inventario di beni trovati nel castello di Rubinstein, dove molti sono stati fatti. Tra le altre cose, in base, c'è un coerente di quindi è una nota a fianco se questi libri si sono pervenuti, titolo pontificale e annotale russo, un glossa psalteri, un su cui va a scrivere i libri, un libro di e fa un parente, un libro che fa un parente, da Cassiodorus Epistolarum, e altre cose, insomma, il libro che ho scritto, lei ha citato questo che ho soltanto in questo pochissimo protocollo che è un tema passato. Si tratta di due posizioni cartacei del 700 che raccolgono positive base dal libro, anche un stile di questo tipo che abbiamo visto nelle fotografie del codice del mondo, riporta per nostra fortuna possibile anche un codice che va in modo che è e sono le tre compagni che arrivo in per concludere. Allora ci vediamo quando ci sediamo ancora al momento almeno per scoprire simile di comunitaria dentro questa giornata. Se non l'ha vista con nostro Signore Dio, ma dall'altra è interessante come atteggiamento di una mentalità circostante. In fondo San Simonino, diciamo così, lo ha inventato lui, se vogliamo, però gli hanno dato retta, il che vuol dire che lo accettavano. Ed è qui il punto che a un certo momento diventa importante. In questo senso la personalità del vescovo finisce persino per entrare, se non mi sbaglio, un pochino in secondo piano. Rimane il problema di un uomo, che come diceva adesso molto bene il dottor Colbruna, rimane il problema di un uomo che è un uomo di altri tempi, che vede il maturare dei tempi nuovi, ne prende coscienza e in un certo senso, dopo di averne preso coscienza, se ho ben capito, se ne ritrae, o perlomeno sta relativamente a guardare, cerca di capire che cosa sta succedendo intorno a lui. Ed è normale, è naturale. Io ricordo, insomma, conosciamo tutti, non è che io ricordo, conosciamo tutti, ne parlavo adesso con il professor Buch, conosciamo tutti l'episodio di un uomo della genialità e della grandezza di Jean Baudin, il quale scrive un bel libro per dimostrare che le streghe sono ispirate dal demonio e via discorrendo. Per un Francisco de Vitoria, uno dei più grandi personaggi teologici, di teologia, di storia della cultura politica, eccetera, del Cinquecento, scrive un trattato per dimostrare che ci sono questi demoniaci, questi indemoniati, che queste donne indemoniate che possono fare diavolerie e cose del genere. Quindi non dobbiamo a un certo punto fermare e dire questo aspetto ce lo rende moderno o antico. Diciamo che è un uomo al passaggio di due età, ma non per questo o quel punto, quanto per una mentalità che accetta quello che gli si sta maturando intorno, però lo guarda e non lo fa proprio. Non so se... Sì, sì. Vorrei forse così raddrizzare un po' il tiro. Non è che lo Hinderbach a un certo punto, visto l'umanesimo, se ne ritragga spontaneamente, volontariamente. In fin dei conti non approda altro che al Vescovado di Trento, insomma, che tra il resto era disastroso dal punto di vista economico, basterebbe spogliare tutta l'enorme massa di corrispondenza tenuta dallo Hinderbach con i suoi massari per rendersi conto del lavoro di ricostruzione proprio finanziaria, economica finanziaria della diocesi, del Vescovado, che era, ripeto, in condizioni disastrose. Quindi non è che se ne ritrae spontaneamente, non trova altro che il Vescovado di Trento e vi si dedica con una certa così ansietà. Ma si ricorda dei circoli umanistici, si ricorda di che cosa è l'umanesimo, si preoccupa di, l'abbiamo visto, penso di averlo mostrato prima, si preoccupa di cercare libri a Tegernsee, a Firenze, a Roma, eccetera. Ha ancora un'idea di queste cose, però si accorge anche di essere ormai tagliato fuori. Difatti ci sono due fette di umanesimo testimoniate nei libri dello Hinderbach. Uno è un umanesimo, diciamo, anteriore, si parla di Guarino, si parla di Leonardo Bruni, eccetera, eccetera, e anche di una certa levatura. E poi, proprio in occasione del fatto di San Simonino, ricompare un umanesimo un po' diverso, e allora saltano fuori lo Giovenzoni, salta fuori Feliciano, salta fuori Gian Mattia Tiberino, Ubertino Puscolo, eccetera, personaggi minori. Lindbergh aveva interpellato anche personaggi più interessanti come Pomponio Leto e come il Platina. Pomponio Leto gli risponde da Roma, dice sì sì, farò una storia di San Simonino, il Platina pure promette una storia di San Simonino, Carmine Onore, eccetera, eccetera, ma non si fanno vedere. Allora lo Hinderbach per conto suo, da poveraccio qui, mette in piedi quell'enorme monumento che è la Collectanea in Iudeos, pacco enorme di documenti con relazioni provenienti da altre diocesi in cui si dimostra come gli infanticidi rituali fossero così all'ordine del giorno, insomma. E sarebbe tutto da studiare quindi questo problema di uno Hinderbach che perde il treno dell'umanismo a un certo momento. Perde il treno proprio perché è costretto a badare alla sua diocesi, insomma, a rappezzare questo vescovado. Poi un'altra cosa, Monsignor Roger ha parlato così di machiavellismo nel Sottovoce, perché ecco, si può anche parlare di machiavellismo, credo, nei confronti dello Hinderbach. Perché, cioè, presenta degli aspetti sinceramente medievali abbastanza sconcertanti da questo punto di vista, però presenta anche atteggiamenti tipicamente moderni, insomma, moderni, san di machiavellico, ad esempio commentando in margine la vita di Tiberio, di Svetonio, nota che a un certo momento ci fu una rivoluzione, che Tiberio stava per perdere il potere, eccetera, eccetera. E si ricorda della rivoluzione viennese dei suoi tempi, di quando perse tutti i suoi libri. E allora annota, dice, no, il principe non si deve comportare in questo modo, il popolo deve essere tenuto ben basso, deve essere populus est stricte coercendus, una cosa di questo genere, cioè un'idea abbastanza pesante del dominio del governo. Non ricordiamo poi anche che dalla distruzione della comunità ebraica vennero con ogni probabilità i fondi per parecchie opere dell'edilizia inderbachiana, insomma. Quindi il quadro si fa effettivamente molto complesso. Se posso. E qui allora più che medioevo e umanesimo entrano in gioco dei fatti, diciamo, più piccoli e forse più umani ma sì, meno nobili, ecco. Se posso, io su questo devo un po' mettere un po' di acqua nel fuoco, in questo senso. Sono capitoli ancora da indagare con un rigore storico, il cercare più a fondo i moventi del Vescovo in questa questione, perché i sospetti sono facili e sono anche generalizzabili, ma non credo, non mi pare che finora sia stata fatta una indagine altrettanto rigorosa come quella fatta per dimostrare la non colpevolezza degli ebrei sulle intenzioni, eccetera, vero, del Vescovo in questa questione. Tra l'altro anche l'aspetto economico sarebbe molto interessante, compreso il dove andarono a finire i beni degli ebrei, che per sé erano appannaggio del tribunale, in gran parte erano proprietà del giudice che faceva sue le penalità del tribunale. Quindi ci sono dei particolari da accertare in modo rigoroso. Ecco, in questo senso io accetterei il discorso di un certo machiavellismo in tutta questa intricata e torbida vicenda. Il Hindelbach, certo, quando cioè prese una posizione, e qui ripeto occorre ancora individuare se e in quanto in buona fede, perché era convinzione generale che gli ebrei avessero fatto questo. Ma certamente dopo essersi avviato su quella strada si diportò come uno che da quella via non recede qualunque cosa succeda. Ecco, cioè una volta preso quell'indirizzo si diportò come uno che non può perdere la faccia a nessun costo. In questo senso, ecco, una volta avviata e montata la macchina, no? Questo credo si possa dire, il resto meriterebbe un'indagine più precisa. In questo senso io parlavo di un certo machiavellismo, una certa potenza che a un certo punto dice, insomma, questo ormai il principe non lo può più, non può perdere la faccia né davanti all'imperatore né davanti al papa, qualunque intervento venga da quelle parti, no? Non può cedere di fronte ad un'imposizione veramente strapotente. Ma forse siamo già andati un po' fuori del caso, è sempre una tentazione questo caso ingrovigliato di Simone, vero? Che, sì. Sì, certo. Si intrecciano fatti culturali, fatti economici e anche il giudizio stesso della sua personalità. Sì, è sicuro. Se sono esatte le... Io ho visto quel busto di lei, appunto in quel volume, sicuramente l'ha fatto vedere. Lì ci sono delle inchieste dei cardinali che sono estremamente precise, dalle quali si rileva che in pratica lui ha impedito, di fatto, insomma, è vero, con la buona volontà con cui, per esempio, un certo archivista di una diocesi che non nomino è riuscito a non farmi entrare nel suo archivio. Però non è che mi diceva no, ma solo che dopo 7 giorni anche, insomma, il Signore si riposò e io presi la pazienza. E lì si è riportato come un uomo che sa operare sul suo diritto formale. Da umanista è diventato giurista. Nessun dubbio, sì. Ma in questo emerge un certo tipo di personalità. Sì. Possiamo accontentarci per questa sera, rinnovando i ringraziamenti. Per me, come cultore di storia locale, è stato un dono.